quella del barrio soy. La vedo spingla che dorre sola e mi fa cambiare su suerte e su barrio querido se.